Era successo tutto di fretta. A inizi di maggio la nostra agenzia radiofonica era stata contattata per coprire giornalisticamente la cumbre de los Pueblos, l'Assemblea dei Popoli, che si sarebbe svolta a Lima a fine mese parallelamente al vertice economico dei capi di Stato e di Governo dell'America Latina e dell'Europa. Pochi giorni dopo la proposta alla nostra redazione, il viaggio verso quel paese lontano migliaia di chilometri. In Italia sbocciava l'estate, a Lima l'umido arricciava i capelli e la pioggerella preannunciava l'inizio dell'inverno. Oltre alla copertura giornalistica dell'incontro dei popoli indigeni, quel viaggio sarebbe stata un'occasione unica per raccogliere il materiale per un documentario radiofonico che raccontasse la storia della colonizzazione fino ai giorni nostri, di come avessero lottato e lottano ancora le comunità indigene e contadine per la propria libertà. Un documentario su cui, peraltro, prima della partenza avevamo già iniziato a lavorare. ...1533, Cusco, Perù. Il conquistatore spagnolo Francisco Pizarro fa eruzione in città. 180 soldati e 37 cavalli si impadroniscono del cuore dell'impero Inca. Cusco era un paradiso abbagliante, la città dei Cesari. I soldati in cotta di maglia sembravano stregati dallo splendore dei metalli preziosi. Allora cominciarono a calpestare gioielli e immagini, pestavano gli utensili d'oro e li prendevano a martellate per schiacciarli e riempirsene le tasche. Gettavano nel crogiolo, per ridurre il metallo in barre, tutto il tesoro dei luoghi sacri Inca, davanti agli occhi esterefatti dell'Inca. Saggi e romanzi avevano creato nelle nostre fantasie eroi buoni e belli e mostri malvagi. La storia era divisa in due, oppressi e oppressori, Francisco Pizarro, capitano di un esercito del male, e gli indigeni esseri indifesi, inermi di fronte alle torture. Occhio, farete la guerra con il più forte. Venite, se volete proteggervi, ok. Venite, scarafaggi, vi schiaccio tutti. Pensavamo, partecipando al Vertice dei Popoli, di contribuire a dare finalmente risalto a un evento ignorato dai media e dalla gente. La prima cosa che il tassista ci ha chiesto invece quando ha saputo che eravamo giornalisti è stata: è andata all'incontro delle comunità indigene o al vertice economico? Per gli abitanti di Lima i due eventi avevano la stessa importanza, come abbiamo avuto modo di constatare anche nei giorni successivi parlando con le persone della città. La cumbre de los pueblos, che è la cumbre expresión de todo el movimiento social peruano, y también decirles que una participación muy activa, muy pujante de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de las comunidades del Perú, permite que esta marcha, rompiendo todos los cercos que nos ha tendido el gobierno, estamos encaminados a la Plaza 2 de Mayo. Il nostro documentario sulla storia della colonizzazione spagnola voleva raccontare attraverso le parole di filosofi e pensatori europei le sofferenze e le crudeltà mascherate da moniti cristiani che si erano abbattute sugli indigeni inermi. Nel 1537 una bolla di Papa Paolo III dichiarava gli indios uomini autentici, ma teologi e pensatori non ne rimasero affatto convinti. L'umanista Juan Quines de Sepulveda sosteneva che gli indios meritavano il trattamento loro riservato perché i peccati e l'idolatria di cui si macchiavano costituivano un'offesa verso Dio. Il conte di Buffon affermava che negli indios animali freddi e deboli non v'era il minimo sintomo di un'attività dell'anima. L'America di Voltaire, abitata da indigeni stupidi e pigri, aveva porci con l'ombelico sulla schiena e leoni codardi senza criniera. Bacon, Montesquieu, Hume e Baudin rifiutarono di riconoscere come loro simili gli uomini degradati del nuovo mondo. Voluptatis. Rota volvitur, uno giro, ventilata quattuor ventis. Irundo. Sai qual è il peggiore mostro che esiste nell'universo? No? È l'uomo, bambina, che supera in ferocia tutti gli animali. Gli animali sono innocenti delle crudeltà che commettono, ubbidiscono alla loro natura. L'uomo invece, quando fa del male, sa di fare del male. Capisci? Questa è la differenza. locale nel cuore di Lima, mentre pasteggiavamo a birra, spiedini e cozze con un gruppo di musicisti peruviani, Cristian, un maestro di storia della musica limegno, ci ha raccontato com'è nata l'arpandina, magnifico paragrafo nella storia della resistenza indigena peruviana. Racconta la tradizione che i luoghi sacri degli Incas, las Huacas, un giorno si ribellarono all'Occidente cristiano incarnandosi in esseri mitici, ballerini e musici. Danzavano in un'estasi frenetica, cantando il ritorno dell'ordine antico e la fine di quell'invasione straniera che era arrivata all'improvviso, come una maledizione. I conquistatori spagnoli erano piombati dal nulla con fucili e cavalli nelle verdissime terre peruviane, avevano sequestrati gli strumenti autoctoni degli Incas, campanelli, flauti, erano diventati fuorilegge. Ma il popolo peruviano non si piegò alle imposizioni dei bianchi né rinunciò alla musica. Con illuminante sarcasmo cominciò a suonare gli strumenti europei inventandone però una percussione indianizzata. Arpa e violino venivano rovesciati e suonati così, sotto sopra. I motivi melodici erano un valzer al contrario. Le note uscivano come un tintinnio di sfida, ossessivo e magico, subliminale messaggio di liberazione. Abbiamo conosciuto Rosa Palomino, 50 anni in 1,40 m di altezza, trecce lunghe sotto la classica bombetta da contadina aymara, pelle tostata dal sole e dal vento, Rosa si stava informando su come funzionasse il software libero e era lì che ragionava su quale fosse la tecnologia più utile per la sua radio. Rosa vive a Puno, vicino al lago Titicaca. È una speaker radiofonica. Il suo programma radio mette in contatto ogni sera alle 7.30 le voci di amici e familiari che non riescono a vedersi da mesi o da anni perché vivono in paesi diversi, spesso poco distanti tra loro ma malamente o per nulla collegati. La trasmissione riscuote un enorme successo ed è ormai un appuntamento fisso per il popolo che vive sulle sponde del lago Titicaca e che tutti i giorni, al calar del sole, si siede davanti al proprio ricevitore per ascoltare appelli e interventi, sperando magari di ricevere un messaggio. Por ejemplo, ellos a veces tienen algún problema que su Se il figlio non riesce a comunicare con la madre malata perché abitano in due paesi diversi, noi cerchiamo di metterli in contatto, oppure usiamo lo strumento radio per convocare le riunioni e l'assemblea di un distretto. Diciamo data e luogo e invitiamo tutti a partecipare. Oppure invitiamo le compagne che partecipano alle nostre riunioni. Il mio programma è 7:30, no? Sono un po' noche per le mamme, a uno che altro. Il mio programma è alle 7:30, un po' tardi per le nonnine. Ci sono alcune che partecipano, ma soprattutto vengono le giovani o studenti di Puno, ad esempio, che vogliono comunicare ai propri genitori che sono rimasti senza soldi e chiedono di mandargliene attraverso uno zio che sta venendo. Le persone conoscono l'orario del mio programma e allora dicono: sta facendo buio, ora inizia il programma. E le più giovani, che sono appassionate, dicono: zitti, zitti, che sta per iniziare. E se qualcuno le saluta alla radio, dicono: mi ha salutato, mi ha salutato. Che emozione! Ascoltare algo che tiene che dirlo, no? E algo le saluta. Ah, chi mi ha salutato? Che emozione! Regala mi niña, déjala que duerma, que si la despierta volverá a llorar. Regala mi niña, déjala que duerma. Da quasi 20 anni Rosa Palomino impartisce lezioni di comunicazione radiofonica agli abitanti della regione di Puno. Quando non conoscono todavía come funzionava una radio, no? Quando ancora non conoscevano come funzionava la radio, le donne andine provavano molta paura e anche a me era successo all'inizio. Allora abbiamo dovuto cominciare combattendo queste paure, parlando della comunicazione, facendo conoscere la radio. E loro avevano veramente tanta paura. Queste donne credevano che come toccavano un registratore o una radiolina, questi si sarebbero rotti e poi l'avrebbero saputo i loro figli e i loro mariti. Perciò per non rompere nulla non toccavano le strumentazioni. Allora durante una lezione, la prima, La prima del corso abbiamo detto: ora cominciamo rompendo la radio, il registratore, tutto quello che volete. Nel primo taller di capacitazione diciamo: ora vamos a malograr la radio, tutto lo che tu quieras, però. Abbiamo cominciato a lavorare con 5 gruppi, un gruppo di nonnette, 3 di signore e 1 di giovani. Le nonnette erano quelle che avevano più paura. Non so dove devo toccare questi aggeggi. Non so dove devo toccare questi aggeggi, dicevano. E io: rompi, rompi, questi sono fatti apposta per essere rotti. Ma loro non volevano proprio farlo. Poi, sempre durante questo corso pratico, gli abbiamo detto: ora apriamo una radio. E prima di smontarla gli abbiamo domandato: che ne pensate, come funziona una radio? Le nonnette pensavano che c'era una testa dentro la radio, una testa umana che parlava. Allora abbiamo smontato l'apparecchio e gli abbiamo fatto vedere che dentro non c'era nessuna testa, e sono rimaste così stupite. Ehi, la voce esce fuori semplicemente dai cavi. Ma dai, non avevamo mai visto dei cavi parlare, e non c'è nessuna testa umana. Grabadora, e lo miramos, no hay ninguna cabeza. Y dice, se sorprende diciendo: ay, había estado aquí simplemente regado de cables. Cable nomás había hablado. No había sido cabeza humana. Y nosotros jamás pensamos que iban a decir ellos así, y nos sorprendemos también. Allora poi abbiamo proseguito, gli abbiamo spiegato che c'era il tasto play, il tasto per andare indietro, quello per andare avanti, per fare la pausa. Toccali, dicevo, senza paura, toccali, non si rompe niente. Continua a parlare, dai. Queste donne così hanno preso familiarità. Questo lavoro ha fatto parte di un processo, e dopo la familiarizzazione con gli strumenti abbiamo proseguito. In questo modo siamo andati avanti e abbiamo costruito l'organizzazione in un distretto che si chiama Waikuya, dove sono stati fatti anche i corsi pratici, come registrare, corsi di locuzione, come fare interviste. Tutto il processo di comunicazione della radio. È una cosa importante che va avanti da 20 anni, è uno spazio guadagnato all'interno della regione di Puno. Prima lavoravamo in un ambiente, preparavamo i programmi e li portavamo all'emittente. Ora già non è così. Facciamo i programmi proprio in radio, le donne vengono a Puno e parliamo in diretta. Trabajamos aquí en un ambiente y llevar el cassette, dejar a la emisora. Entonces ahora ya no es así, sino que yo voy a la emisora en vivo, como lo hemos hecho, ¿no? Sí. Y así, y después ellas llaman o vienen, te hablamos. Emergevano da un report elaborato dall'Osservatorio dei conflitti minerari, parlavano chiaro: il 55% delle 6.000 comunità contadine che abitano in Perù sono danneggiate dall'attività delle imprese minerarie. Secondo la Defensoria del Pueblo, nel dicembre del 2007 c'erano stati 37 conflitti socioambientali a fronte dei 20 dell'anno precedente. Eravamo pronti a utilizzare tutte le nostre doti di inchiestisti e indagatori per farci raccontare qualche storia di resistenza e di lotta. Rosa, dopo poco che parlavamo, ci ha chiesto se il disco che voleva regalarci, con gli audio da loro realizzati, di informazione sulle lotte e di sensibilizzazione sui temi ambientali, lo preferivamo a CD o con le tracce in MP3. I danni perpetuati dalle imprese di estrazione, costruttori e multinazionali sono sotto gli occhi di tutti. Hace años, este lugar fue el hogar de muchas especies de animales, un hábitat impecable, un banco biológico donde se podía ver el milagro de la vida. Los humedales son productores de oxígeno, fábricas de vida, un tesoro valioso para la salud y el bienestar de nuestros hijos y las futuras generaciones. A la naturaleza le costó miles de años ofrecernos un paraíso como este. Pero el crecimiento urbano, caótico y sin planificación, los viene destruyendo a cada instante, minuto a minuto, segundo a segundo. Due progetti di legge, il 1770 e il 1900, proposti dal partito di Alan García, l'attuale presidente del Perù, prevedono la conversione delle terre non coltivate delle comunità indigene in proprietà dello Stato da affittare al miglior investitore privato. Le comunità indigene, nella tesi dell'entourage presidenziale, sono infatti incapaci di generare sviluppo, lasciano le terre improduttive e vivono nella povertà. No podemos estar tranquilos sin saber dónde está. Es triste para nosotros ver cada situación que nos puede recordar a mi padre. Ayúdenos a saber dónde está él. No es nada fácil seguir sin él. Lo golpearon y casi desmayado lo sacaban a la calle. El esposo de Nevara, Riros Archacrata, Gallina, Aparamos. I conflitti ci sono stati e ci sono. Così come sono vere le sofferenze e le ingiustizie subite dalle 6.000 comunità indigene che popolano il Perù. Ma la resistenza opposta da queste persone, forte e vitale, non potrà mai essere letta sul libro. L'unica via per percepirla è farsela raccontare dagli occhi della gente. La misura dell'arpa peruviana è unica nel suo genere, più grande di quella celtica ma più piccola di quella classica. Al contrario dell'arpa classica, l'arpa peruviana si deve suonare con le unghie delle dita. I musici che non hanno soldi utilizzano come corde il filo da pesca, che crea un suono sordo, opaco. La cassa di risonanza è così grande che da vicino sembra che i suoni che emette invece di aumentare diminuiscono, però da lontano, specialmente nell'aria secca e leggera delle altitudini, le note basse si sentono nitidamente, con una forza meravigliosa. Avete ascoltato Appunti dal Perù. Si ringrazia Rosa Palomino, l'ONG Servindi, il foro di radio di Lima 2008. Appunti dal Perù è una produzione dell'agenzia Amisnet a cura di Marzia Coronati. And the head said that you always wear a queer one from the start. For careers you say you wanna